ragione, resta lei che sposa esser dovrà d'un Silva, a due seduttori a scorno. Entrate là, miei fidi cavalieri, sia ognun testimon del disonore, dell'onta che si rende.